l'amicizia. Ma sono starte, perché vieni, signore? Vengo a salvarti. A salvarmi? Non più. Per questa via che in suitaria parte termina nella reggia, i passi affretta. Mio re, sorreo mi credi, perché vieni a salvarmi? E se innocente, perché detto a fuggir? Mi letto erboce, non perdiamo i momenti. Ah, potrebbe il tuo dono un giorno esser palese, e allora... Oh, parti, amico, io te ne priego, e se pregando nulla ottener possio, retta il comando.

l'unica via d'indebolirmi. Ma è solo dubbio che più non viva il figlio amato. Dubito, disperato, vincer non posso il turbamento interno che a me stesso di me toglie il governo. Fortuna a rendere i giorni tuoi, voglio infelici. E come? tutto e pur la credi. Allora che insultando mandare al cristoro questo cortesivo, il suo trafico è non risano il mio. Crudel tappana e quella ferra e quella... credermi? No, non so. Sarebbe quello che ti frattini, qualche segno d'amor. Crudeli che bravi, puoi vedermi arrossì. Salvati, fuggi, non affliggermi più. Tu ami ancora, se a questo segno a combattere mi arrivi. No, non crede l'amor, ma fuggi. Oh, Cangi or che bevo la bevanda vitale tutta in veleno. Arrivano, signor, cinta la regia d'un popolo infedel, tutta risuona di grida sediziose, e la tua morte si procura, si chiede. Arbace il traditore, arbace stinto, vive, vive l'ingrato. Io li sciolsi empio con serse e meritai la pena che il cielo or mi destina. Te, mio re, per tua difesa basta solo arcavano. Sì, corriamo a punir. E l'epireco, il tuo volto sbagli. Sì, è vero, e come? Accorsi armati, che non venisse in tua difesa. Quell'anima fedel, ciascun di cose l'altri, e sorrestava l'indegno e capise che la salì si vendicò l'uccise. E corre pace, onore capito, vieni, vieni al mio sen, per tuo amico, sì, ho dubitai di te. Troppo è palese la tua bella innocenza, affa che io possa con grandezza premiarti e rendi a noi ogni sospetto in nel popolo di Legua, e rendi a noi qualche ragion del sanguinoso ferro che in tuo man si trovò, della tua fuga, del tuo tacer, di quanto ti fece reo. Zio meritai, signore, qualche premio da te, lascia che io faccia. Il mio labbro non mette, credo che ti favo, sono innocente. Giurato almeno, l'atto terribile e solenne faccia fede del vero. Ecco la tazza al rito necessaria, perseguitando nella Persia il costume, vindice chiama e testimonio un nome. Son pronto! Ecco il mio ben fuor di periglio. Per celarlo io gli diedi il suo pallone d'orror del mio fallo, il suo silenzio che dà d'un figlio. Se minore in lui la virtù fosse stato in me l'amore, compivo il mio disegno e involata avrei la vita e il regno. Che dice? Andrea, uccidi il padre, della morte gli dai, colpevole mi rendi. A quanti eccessi ti indusse mai la scellerata speme, e in pio morrai. Ma Dio, signore, pietà! Non domando da te clemenza o da fervor, ma cambia la sua nella mia morte. Regge lieve chi ti salva, ti chiede in questa guisa fa pagare il tuo Dio e sangue d'artano e santo mio sorgi non più rasciuga quel generoso pianto Anna bella chi resister ti può viva Retavano ma viva almeno in doloroso esilio e Gioni il tuo sovrano l'error d'un padre alla virtù d'un figlio.